Savonarola, il frate che straniò Firenze, prose scelte, un programma prodotto da Davide Giorgio per Radio Big World. Savonarola, prose scritte da Pasquale Villari, che nella sua adolescenza chi riempiva le pagine delle cronache inglesi era la regina Vittoria degli Hannover, famosa per le gonne lunghe e i mutandoni, e lette da me che nella mia adolescenza chi riempiva le pagine delle cronache inglesi era la reginetta Vittoria delle Spice Girls, famosa per le gonne corte e le mutandine. D'altra parte, donna savia e bella è preziosa anche in gonnella, e comunque quando il gallo si mette le brache tutte se le sporca. Serio, capitolo 19, qualcuno si fumò il nido del cuculo. Per mettere in luce tutta l'importanza politica del Savonarola bisogna seguire passo a passo la formazione del nuovo governo e leggere nello stesso tempo le prediche che egli faceva in quei giorni. Quando noi vediamo che tutte le nuove leggi sono precedute da una o da più prediche del Savonarola che le propongono, le consigliano e le spiegano al popolo, quando assistiamo alle pratiche che la signoria tiene in palazzo e sentiamo quei cittadini discutere con il linguaggio stesso del frate, addurre le sue ragioni con le sue medesime parole in maniera da farci quasi credere che i loro discorsi siano una copia delle sue prediche e la legge che essi discutono qualche sua nuova epistola, allora noi potremmo dire di aver visto come un uomo solo fosse divenuto l'anima di tutto un popolo. E quando alla fine di questo esame, raccogliendo insieme le varie leggi e ricostruendo per così dire la forma di tutto il governo, noi lo troveremo ammirabile nelle sue parti, stupendo nel suo insieme, e udiremo la voce di tutti i più grandi storici e politici italiani assicurarci quello essere il migliore, anzi il solo buon governo che abbia avuto Firenze in tutta la sua lunga e tumultuosa storia, allora solo noi potremmo equamente giudicare il Savonarola. Chi in questo frangente volesse inferirne lo stato in cui era l'animo del Savonarola andrebbe forse assai lungi dal vero. Ognuno crederebbe di trovarlo, se non superbo, almeno lieto del successo ottenuto e del gran bene che aveva fatto al suo popolo. Ma invece basta leggere le prediche che egli faceva in quel tempo per vedere come una profonda tristezza occupava l'animo suo. Mentre che egli domina dal Pergamo tutto il popolo che pende dai suoi cenni, mentre che la città intera ubbidisce alla sua volontà, egli è ben lungi dall'abbandono. Abbandonarsi alla gioia. L'avvenire si presenta tristo ai suoi occhi ed invano egli cerca allontanarne la sinistra immagine. Invero, le grandi promesse e le belle speranze da lui date a Firenze erano state sempre condizionate. Se voi non vi convertite al Signore, i lieti auguri si muteranno in tristi. E quel popolo era tanto inveterato nel male che l'avvenire dell'Italia, l'avvenire della Chiesa e il suo proprio avvenire apparivano agli occhi del Savonarola pieni di pericoli e dolori sempre maggiori. Questi tristi presentimenti pare che si affacciassero a lui più vivi in quei momenti appunto nei quali si sarebbe creduto che più sereno e contento dovesse essere l'animo suo. Quando aveva superata la prima lotta politica, quando aveva fatto vincere la forma del governo popolare e il consiglio maggiore, in quei giorni in cui il popolo tutto lieto andava ad ascoltarlo e si aspettava da lui quasi un cantico di gloria al Signore, egli cominciando invece una delle solite allegorie dipingeva la tristezza del suo animo e profetizzava agli uditori la sua morte violenta, della quale sembra che non abbia mai dubitato. Erano questi di quei momenti dei quali egli soleva dire: un fuoco interno brucia le mie ossa e mi forza a parlare. Il Savonarola era allora rapito come in una specie d'estasi nella quale l'avvenire sembrava veramente aprirsi ai suoi occhi. Quando ciò seguiva nella solitudine della sua cella, esso rimaneva lungo tempo in preda alle visioni e vegliava notti intere fino a che il sonno, vincendolo, non veniva a riconfortare le stanche sue membra. Ma se ciò seguiva invece quando era sul Pergamo in presenza di tutto il popolo, il suo esaltamento allora non aveva più limiti e superava tutto ciò che la penna può descrivere. Egli era come prepotentemente rapito e rapiva seco il suo uditorio. Si vedevano uomini e donne d'ogni età e condizione, artigiani, poeti e filosofi, prorompere in un pianto dirotto che echeggiava per tutta la chiesa. Colui che dalla viva voce raccoglieva la predica era allora costretto a scrivere: qui il pianto mi vinse e non potetti andare più oltre. Il Savonarola stesso sedeva esausto e qualche volta rimaneva ammalato e a letto per più giorni. I sogni e le visioni che aveva avute sin da fanciullo cominciarono a moltiplicare, si affollavano intorno alla sua mente e nella notte gli ne veniva quasi assalito. Quando poi s'avvide che la lettura della Bibbia e dei padri, la fervida preghiera, le notti vegliate le facevano crescere ogni giorno, incominciò a crederle ispirate dal Signore e prodotte nella sua mente dagli angeli, in quel modo appunto che San Tommaso dice avvenire dei profeti. Allora non vi fu più sogno da lui fatto, non vi fu strana immaginazione cui non trovasse un riscontro nella Bibbia, che non mettesse a scrutinio con le regole dell'angelico dottore. Passava inginocchiato nella sua cella le notti intere in preda a queste visioni, le quali esaurivano sempre più le sue forze ed esaltavano il suo cervello, ed egli finiva col vedere in ogni cosa rivelazioni del Signore. Non è descrivibile che cieca fede egli prestasse ormai a queste sue visioni e sino a che punto ne fosse divenuto schiavo. A sentirlo discorrere si sarebbe in certi momenti creduto che in esse solo consistesse tutta l'importanza della sua missione. Egli vi faceva sopra uno studio continuo, una seria meditazione, si occupava lunghe ore a distinguere come gli angeli producono le visioni nella mente dell'uomo, come si odono le voci soprannaturali e via discorrendo. È singolare veramente il vederlo dibattersi fra mille argomenti, fra mille sillogismi, che sono altrettanti sofismi, per dimostrare la verità delle sue rivelazioni. Trista posizione è quella di chi deve con la ragione provare che egli è al di sopra della ragione e con gli umani argomenti provare che egli è al di sopra degli uomini. Il Savonarola, senza avvedersene, camminava sopra un terreno che poteva aprire sotto i suoi piedi una voragine pericolosa. Per dimostrare la sua soprannaturale potenza non vi era che un solo modo irrecusabile, il miracolo. Tal domanda poteva un giorno essergli fatta da quella cieca moltitudine che, con la sua credulità, spingevalo a sempre maggiori eccessi. Tal domanda poteva, nelle mani dei suoi avversari, divenire un giorno arme contro di lui potentissima. Ma egli era così cieco in queste sue credenze che mai non gli poteva venire il pensiero di dubitarne. Gli sarebbe quasi sembrata un'ingratitudine al Signore, né sapeva persuadersi che coloro, i quali non gli volevano credere, potessero essere in buona fede. Aveva scritto un opuscolo sul soggetto della profezia col titolo di Compendium Revelationum, che fu pubblicato nell'agosto dell'anno 1495. Si trova a sostenere l'animo suo contro quel bisogno di raccontare visioni che pur finalmente lo vinse. Alcune delle visioni che racconta non mancano di una certa vigorosa fantasia. Che diremo quando il Savonarola, fattosi ambasciatore dei fiorentini a Gesù Cristo, racconta il suo lungo e strano e incomprensibile viaggio nel paradiso, del quale dà una minuta descrizione riportando i discorsi che gli furono tenuti da vari personaggi allegorici e dalla Vergine, di cui descrive il trono e ci dà perfino il numero e la qualità delle pietre preziose che lo adornavano. La puerilità stessa di queste visioni ci presenta un forte argomento per difendere il Savonarola dalle accuse che molti gli hanno voluto fare di poca sincerità e di malafede, quasi che egli avesse voluto, col secondare la credulità della plebe, rendersene meglio padrone. Questa opinione confonderebbe tutto il suo carattere, ridurrebbe tutta la sua vita in un caos e renderebbe inesplicabili non solo le sue più belle qualità, ma anche i suoi più gravi errori. Come si potrebbe mai credere che un uomo dell'ingegno, della prudenza, della esperienza che aveva il Savonarola fosse nel fingere così poco accorto, così puerile? Qual bisogno aveva egli, quando avesse voluto fingere, di raccontare le sue finzioni ai quattro venti? Qual bisogno aveva, per ingannare la plebe, di scrivere astrusi e difficili trattati sulle visioni, parlarne agli amici, alla madre stessa, discuterne sui margini delle sue Bibbie? Quelle cose che i suoi imparziali ammiratori più vorrebbero nascoste, quelle cose che la doppiezza meno accorta avrebbe forse raccontate al popolo, ma non avrebbe certo messe a stampa, sono quelle appunto che egli pubblicava e ripubblicava, quelle che egli sosteneva con la Bibbia e con San Tommaso. Anzi, questa è la singolarità del suo carattere, questo è il fatto che più merita di essere considerato, il vedere cioè un uomo che dominava un intero popolo, che empieva il mondo della sua eloquenza, che era il filosofo più originale di quel secolo, che aveva dato a Firenze la miglior forma di repubblica che avesse mai avuta, il vederlo quasi inorgoglire d'aver sentito per aria delle voci, d'aver visto la spada del Signore, d'essere stato ambasciatore dei fiorentini alla Vergine. Né questo singolare contrasto fu mai così grande come nel Savonarola e in quella età che egli incominciava. Pareva che in quel nuovo ringiovanire del genere umano tutte le facoltà si fossero esaltate e la vita fosse divenuta quasi una febbre in cui gli uomini non potevano salvarsi dal delirio. Il grave e solenne Marsilio Ficino mutava ogni giorno le pietre dei suoi anelli a seconda dello stato del suo animo, mutava nei suoi amuleti le unghie e i denti dei vari animali e discuteva dalla cattedra sulle loro occulte virtù. Francesco Guicciardini ci assicura di aver avuto esperienza degli spiriti aerei e Cristoforo Landino ricercava negli astri l'avvenire della religione cristiana, onde si può concludere che tra il Savonarola e i suoi più celebri contemporanei non passava altra differenza se non che egli attribuiva a cause tutte religiose e soprannaturali quelle cose medesime che gli altri filosofi e pensatori attribuivano alle potenze occulte. Ma se diamo ancora un passo per entrare più oltre in quel periodo di storia che i francesi chiamarono Rinascenza, la nostra maraviglia non avrà allora più limiti. I sogni del Pomponaccio, del Porta, del Cardano lasciano di gran lunga addietro quelli del frate di San Marco. Quegli arditi ingegni che attraverso le scienze occulte spianarono la via al Galileo sembravano delirare in tutta la loro vita. Certo, niuno oggi vorrebbe creder veri i sogni del Cardano se egli medesimo non li avesse narrati nella sua biografia, e niuno vorrebbe allora credere all'ingegno che gli ebbe se i suoi scritti non stessero a confermare le sue scoperte. Le visioni tolsero alla scienza la metà della sua vita. Un fischio che udiva nell'orecchio era la voce del suo genio. Una vespa che entrava nella camera gli faceva quasi scrivere un volume di predizioni, alle quali prestava poi tanta fede che gli storici raccontano come si lasciasse morire di fame per farne verificare una. Tali furono quegli uomini, tali quei tempi che dovevano dare alla religione, alla scienza e alla libertà tanti martiri. E noi lo abbiamo detto più volte, senza mettere il Savonarola alla testa della nuova età non si potrà mai comprendere il suo carattere.